Capitolo 22. Il signor Rochester mi aveva dato soltanto una settimana di permesso, ma trascorse un mese prima che io ripartissi da Gateshead. Volevo accomiatarmi subito dopo i funerali, ma Georgiana mi supplicò di rimanere fino alla sua partenza per Londra, dove finalmente era stata invitata da suo zio, il signor Gibson, il quale era venuto ad assistere alla sepoltura della sorella e a regolare gli affari di famiglia. Georgiana diceva che l'idea di rimanere sola con Eliza la spaventava, perché non trovava in lei né simpatia nel suo abbattimento, né sostegno nei suoi timori, né aiuto nei suoi preparativi. Così mi assoggettai a sopportare i gemiti e gli egoistici lamenti di quella debole creatura e feci del mio meglio per aiutarla a preparare e a riporre nei bauli i suoi vestiti. È vero che mentre io lavoravo lei si riposava ed io pensavo tra me, se tu ed io fossimo destinati a vivere insieme, cara cugina, la nostra convivenza comincerebbe su tutt'altro piede. Non sopporterei certo di lavorare io sola. Ti assegnerei la tua parte di lavoro e ti costringerei a farlo. Se poi ti rifiutassi, nessuno lo farebbe per te. Ti pregherei anche di risparmiarmi le tue eterne lamentele, del resto spesso insincere. È soltanto perché i nostri rapporti devono durar poco, e questo è un momento particolarmente triste che acconsento ad essere così paziente e remissiva. Finalmente Georgiana partì, ma allora fu Eliza a chiedermi di rimanere un'altra settimana. I suoi progetti richiedevano tutto il suo tempo e la sua attenzione, mi disse, perché era in procinto di partire per un luogo ignoto. Passava tutta la giornata chiusa in camera sua a riempir bauli, a vuotar cassetti, a bruciar carte, senza comunicare con nessuno. Per questo aveva affidato a me la cura di dirigere la casa, di ricevere le visite e rispondere alle lettere di condoglianza. Una mattina mi disse che ero libera e aggiunse: «Le sono molto obbligata per i suoi servigi e la sua discrezione. Vi è una grande differenza tra il vivere con una persona come lei e con Georgiana. Lei adempie al suo compito nella vita e non pesa a nessuno. Domani, continuò, parto per il continente e vado a stabilirmi in una casa religiosa presso Lilla, un convento, direbbe lei. Là potrò vivere tranquilla e indisturbata. Per qualche tempo studierò i dogmi della Chiesa cattolico-romana e rifletterò su quel sistema religioso. Se, come son propensa a credere, scoprirò che è il sistema migliore per avere la certezza che ogni cosa sia fatta con ordine e decoro, abbraccerò la dottrina di Roma e probabilmente prenderò il velo». Non espressi alcuna meraviglia per quella decisione e nemmeno tentai di dissuaderla. «È una vocazione che ti va a pennello», pensai tra me, «e chissà che non ti migliori». Quando ci separammo, ella mi disse: «Addio, cugina Jane, le auguro ogni bene perché è una ragazza di buon senso». «Anche lei non ne manca, cugina Eliza», risposi, «ma temo che tra un anno il suo buon senso sarà sepolto vivo tra le mura di un convento francese. Comunque non è affar mio, e se ciò le conviene, tanto basta». «Ha ragione», concluse Eliza, e con queste parole ognuna di noi si avviò per la sua strada. Visto che non avrò più occasione di parlare né di lei né di sua sorella, tanto vale dire subito che Georgiana fece un vantaggioso matrimonio accettando di diventare la moglie di un ricco e vecchio signore di bel mondo, e che Eliza prese effettivamente il velo e oggi è superiora del convento dove fece il noviziato e al quale ha donato tutti i suoi beni. Che cosa provi in genere la gente tornando a casa dopo un'assenza lunga o breve io non lo sapevo, perché era una sensazione che non avevo mai sperimentato. Ricordavo soltanto quel che avevo provato da bambina quando rientravo a Gateshead dopo una lunga gita solamente per essere rimproverata o castigata. Ricordavo i ritorni a Lowood con le membra intirizzite dal freddo e lo stomaco vuoto, quando dopo il lungo servizio di vino e le 2 miglia di cammino desideravo inutilmente un po' di cibo ed un buon fuoco. Né l'uno né l'altro erano ritorni piacevoli o desiderabili perché nessuna calamita mi attirava là dove ero diretta. Che cosa avrei provato ritornando a Thornfield? Non lo sapevo ancora. Il viaggio mi parve lungo e tedioso, molto tedioso. Bisognava percorrere 50 miglia il primo giorno, passare una notte alla locanda e fare le altre 50 il giorno dopo. Durante le prime 12 ore pensai agli ultimi momenti della signora Reed e ne rividi il viso sfigurato e smunto, riudii il suono stranamente alterato della sua voce. Ripensai al giorno dei funerali, alla bara, al carro funebre, al nero corteo dei servi e dei contadini, i parenti convenuti erano pochi, alle buie volte, al silenzio della chiesa, al servizio solenne. Poi mi tornarono alla mente Georgiana ed Eliza, e mentre la prima la vedevo elegantissima e ridente al centro di una splendida festa da ballo, l'altra la vedevo chiusa nella cella di un convento, e mi soffermai ad analizzare le loro diverse caratteristiche fisiche e morali. L'arrivo verso sera nella grande città disperse questi pensieri e la notte me ne portò altri. Coricata in un letto d'albergo abbandonai i ricordi per pensare all'avvenire. Ritornavo a Thornfield, ma quanto ci sarei rimasta? Non molto, di questo ero sicura. Durante la mia assenza avevo ricevuto una lettera dalla signora Fairfax con la quale mi annunciava che gli ospiti avevano lasciato la villa. Il signor Rochester era partito per Londra 3 settimane prima, ma era atteso di nuovo a Thornfield. La signora Fairfax riteneva che si fosse recato in città per i preparativi del matrimonio, in quanto che aveva accennato all'acquisto di una nuova carrozza. Aggiungeva inoltre che quel matrimonio con la signorina Ingram le sembrava sempre molto strano, ma da quanto asserivano tutti e da quanto lei stessa aveva veduto, non poteva più dubitare che le nozze sarebbero state celebrate presto. Sarebbe ben incredula se dubitasse ancora, commentai tra me. Io non ne dubito. Così mi si poneva la domanda dove andare. Sognai la signorina Ingram tutta notte e verso il mattino un sogno molto chiaro me la mostrò che chiudeva dietro a me le porte di Thornfield, accennandomi la strada, mentre il signor Rochester, a braccia incrociate, rideva con aria ironica sia di me che di lei. Non avevo annunziato alla signora Fairfax il giorno preciso del mio ritorno perché non volevo che mi mandasse la carrozza a Millcote. Mi ero proposta di fare la strada a piedi e infatti, dopo aver lasciato il baule in consegna all'albergatore, uscii senza fretta dalla locanda e verso le 6 di una sera di giugno mi misi in cammino verso Thornfield, seguendo la via antica che attraversava i campi e che era ormai poco frequentata. Era una dolce e calma sera d'estate, ma non particolarmente bella o luminosa. Lungo la via i contadini falciavano ancora il fieno e il cielo, nonostante qualche nuvola, prometteva un'altra giornata di bel tempo, perché l'azzurro, là dove lo si scorgeva, era dolce e sereno e le nubi chiare. Ad occidente l'orizzonte aveva una tinta calda, nessun lucore di pioggia lo ingrigiva, sembrava un focolare acceso, un altare ardente dietro uno schermo di marmore e i vapori, dalle cui fenditure filtrassero raggi di un rosso dorato. Ero contenta di vedere la strada accorciarsi davanti a me, così contenta che ad un tratto mi fermai per chiedermi da che cosa provenisse quella gioia e per ricordare alla ragione che non stavo tornando a casa mia né a una residenza permanente né in un luogo dove fossi attesa da amici devoti e affettuosi. La signora Fairfax ti darà il benvenuto con un placido sorriso, mi dicevo, e la piccola Del batterà le mani e ti correrà incontro, ma sai bene che pensi a un'altra persona e che quella persona non pensa a te. Ma v'è nulla di più ostinato della gioventù, di più cieco dell'inesperienza? Tutte e due mi affermavano che era già un piacere sufficiente poter rivedere il signor Rochester, anche se non avesse badato a me, ed aggiungevano: affrettati, affrettati, cerca di stare con lui finché lo puoi. Ancora un po' di giorni, al più qualche settimana, e sarai per sempre divisa da lui. Allora una nuova angoscia mi strinse alla gola, un pensiero deforme che non dovevo coltivare in me, e mi rimisi in cammino, a passi rapidi. Falciavano anche nei prati intorno a Thornfield. I contadini avevano abbandonato il lavoro in quel momento e tornavano a casa col rastrello sulle spalle, mentre io arrivavo. Non avevo ormai che da attraversare due prati e la strada per raggiungere i cancelli della villa. I cespugli erano carichi di rose, ma non mi fermai a coglierne perché avevo troppa fretta di arrivare. Passai davanti a una siepe di biancospino che spingeva i suoi tralci fioriti fin sopra il sentiero. Mi accostai alla stretta barriera cordonata di granito e appollaiato su di essa vidi il signor Rochester con un taccuino e una matita in mano. No, non è un fantasma, eppure tutti i miei nervi sono scossi e per un momento mi sento vacillare. Che significa ciò? Non credevo che avrei tremato così nel rivederlo, né che avrei perso la voce o la facoltà dei movimenti di fronte a lui. Non appena potrò muovermi, tornerò indietro. Non voglio fare la figura della sciocca. C'è un altro sentiero per raggiungere la casa. Ma anche se ve ne fossero 20, ormai era inutile perché egli mi aveva veduta. «Olà!» esclamò posando il taccuino. «Eccola di ritorno! S'avvicini, la prego!» Credo d'aver ubbidito, anche se non saprei dir come. Avevo scarsa coscienza di ciò che facevo e il mio solo desiderio era di apparire calma e soprattutto di controllare i muscoli del viso che si ribellavano alla mia volontà, ostinandosi a esprimere ciò che avevo deciso di nascondere. Ma avevo un velo sul cappello, lo abbassai. Ora mi sarebbe stato più facile comportarmi con decoro. Ma è proprio lei, Jane Eyre, e arriva a piedi da Millcote? Già, una delle solite fantasie. Perché non si è fatta mandare la carrozza e non arriva qui su quattro ruote come un comune mortale, invece di aggirarsi furtiva all'ora del tramonto nei pressi della casa, come se fosse un sogno o un'apparizione? E che diavolo ha fatto in quest'ultimo mese? Sono stata presso mia zia, signore, ora è morta. Una vera risposta alla Jane Eyre. Angeli buoni, custoditemi. Costei giunge dall'altro mondo, dalla dimora degli uomini morti, e me lo dice, incontrandomi qui solo mentre annotta. Se osassi, la toccherei per assicurarmi che un corpo e non un'ombra, piccola silfide, ma sarebbe lo stesso che voler afferrare un fuoco fatuo sopra una palude. Dispettosa e sconoscente creatura, aggiunse dopo un istante, lo sa che mi è stata lontana per un mese e giurerei che mi ha anche dimenticato. Sapevo che sarei stata felice nel rivedere il mio padrone, anche se quella felicità sarebbe stata offuscata dal pensiero di doverlo lasciare e dalla coscienza che non sarei stata più nulla per lui, ma il signor Rochester aveva, o perlomeno mi sembrava avesse, così sviluppata la facoltà di comunicare la gioia, che soltanto il raccogliere le briciole che spargeva agli uccellini smarriti ed estranei come me equivaleva a partecipare a un sontuoso banchetto. Le sue ultime parole furono un balsamo. Mi pareva significassero che non gli era indifferente essere dimenticato da me. Gli aveva parlato di Thornfield come di casa mia. Oh, se lo fosse stata veramente. Era sempre seduto sopra la barriera ed io non osavo chiedergli di lasciarmi passare. Allora gli domandai se era stato a Londra. Sì, immagino che gliel'abbia detto alla sua seconda vista. Ah, me l'aveva scritto la signora Fairfax. E le ha scritto anche che cosa ci andavo a fare? Sì, signore, lo sapevano tutti. Deve vedere la carrozza, Jane, e dirmi se le pare adatta per la signora Rochester e se seduta su quei cuscini rossi ella non sembrerà la regina Boudicca. Desidererei tanto, Jane, che il mio aspetto stonasse meno con il suo. Mi dica lei che è una fatina, non può farmi un incantesimo o darmi un filtro che mi renda bello? Ciò oltrepassa il potere della magia, signore, e tra me pensai, un occhio innamorato. Ecco l'incanto che ci vuole, per quell'occhio tu sei bello abbastanza e l'espressione cupa del tuo volto è ancora più attraente della bellezza. Il signor Rochester aveva qualche volta letto nei miei pensieri con un acume che mi riusciva incomprensibile. In quel momento egli non fece attenzione alla mia breve risposta, ma mi sorrise con uno di quei sorrisi che gli erano propri e che raramente concedeva, forse perché gli sembravano troppo belli per abusarne. Fu un vero raggio di sole uscitogli dall'intimo che egli lasciò splendere su di me. Passi, Jane, mi disse scostandosi, salga alla villa e posi il suo stanco piedino errante sulla soglia amica. La sola cosa che potevo fare era di ubbidirgli in silenzio perché non volevo prolungare quel colloquio. Attraversai la barriera senza pronunciar parola per non tradire il mio turbamento, ma un impulso irresistibile mi trattenne, costringendomi a voltarmi, e dissi. O meglio, un'intima voce disse per me contro il mio volere. Grazie, signor Rochester, grazie per la sua gentilezza. Sono contenta di trovarmi di nuovo qui, presso di lei, ovunque lei sia. Là è la mia casa, la mia unica casa. E corsi via così in fretta che difficilmente egli mi avrebbe raggiunta anche se lo avesse voluto. La piccola Adele sembrava fuori di sé dalla felicità nel rivedermi e la signora Fairfax mi ricevette con la consueta bonomia. Lia mi sorrise. E persino Sophie mi augurò contenta la buonasera. Tutto questo mi consolò perché non vi è gioia maggiore di quella di sentirsi amati dai propri simili e di vedere che la nostra presenza è un piacere per loro. Quella sera chiusi deliberatamente gli occhi sull'avvenire e mi tappai le orecchie per non udire la voce che mi avvertiva della prossima separazione e del dolore che l'avrebbe accompagnata. Dopo preso il tè, mentre la signora Fairfax riprendeva a sferruzzare, mi sedetti su uno sgabello accanto a lei e Adele, inginocchiata sul tappeto, posò la testa sulle mie ginocchia, stringendosi a me. Un senso di reciproco affetto pareva unirci in un cerchio di aurea serenità, e allora io pregai Dio in silenzio di non dividerci mai. Mentre stavamo così vicine, il signor Rochester entrò inaspettatamente e parve rallegrarsi alla vista della nostra affettuosa intimità. Si disse certo che la vecchia signora si sarebbe sentita meglio ora che la sua figlia adottiva era tornata e aggiunse che vedeva Adele prête à croquer sa petite maman anglaise. Udendolo parlare così, osai quasi sperare che anche dopo il matrimonio egli ci avrebbe tenute insieme, sotto la sua protezione, senza privarci del tutto del raggio benefico della sua presenza. 15 giorni di calma, per me tutta apparente, seguirono il mio ritorno a Thornfield. Nessuno parlava delle nozze del padrone, né vedevo che si facesse alcun preparativo per l'evento. Quasi ogni giorno chiedevo alla signora Fairfax se aveva sentito dire nulla di preciso, ma la sua risposta era sempre negativa. Una volta mi confessò di aver domandato direttamente al signor Rochester quando avrebbe condotto la sposa in casa. Le aveva risposto scherzando e gettandole un'occhiata così strana che ella non sapeva più cosa pensare. Una cosa specialmente mi stupiva, e cioè che non vi fosse mai nessuno scambio di visite tra gli Ingram e il signor Rochester, e che egli stesso non si recasse mai a trovare la fidanzata. È vero che la villa degli Ingram era distante 20 miglia, proprio al confine con un'altra contea, ma che cos'era questa distanza per un uomo ardentemente innamorato? Per un cavaliere esperto ed instancabile come il signor Rochester, 20 miglia costituivano una passeggiata da farsi in una mattina. Così cominciai a nutrire speranze che non avevo alcun diritto di concepire. Speravo che il matrimonio fosse andato in fumo, che le voci correnti fossero errate, che una delle due parti, oppure entrambe, avessero cambiato idea. Scrutavo il volto del mio padrone per vedere se era triste o cupo, ma non riuscivo a ricordare un altro periodo in cui il suo viso fosse stato così costantemente sgombro di nubi e di cipigli. Se nei momenti che io e la mia allieva trascorrevamo con lui il coraggio veniva a mancarmi e piombavo nella malinconia, egli diventava persino allegro. Non mai prima mi aveva chiamato tanto spesso accanto a sé, mai si era mostrato più gentile e mai, per mia disgrazia, io lo avevo tanto amato. Capitolo 23. Una splendida estate brillava sull'Inghilterra. È raro che un cielo così puro e un sole tanto radioso rallegrino la nostra isola, non fosse che per un giorno, mentre ora splendevano da molto tempo. Sembrava che un gruppo di giornate italiane fossero giunte dal sud come un lieto stormo di uccelli per posarsi sulle scogliere di Albione. Il fieno era già stato falciato e i campi intorno a Thornfield verzicavano d'erba nuova. I sentieri assolati erano bianchi di polvere, gli alberi rigogliosi e le siepi e il bosco, folti di scuro fogliame, contrastavano con la chiara distesa dei prati appena rasi. Alla vigilia della festa di San Giovanni, Adèle, stanca di aver colto more tutto il giorno sulla via di Hay, era andata a letto col sole. Aspettai che dormisse e poi scesi in giardino. Era l'ora più bella della giornata. Il calore ardente del meriggio era scemato e una benefica rugiada cadeva fresca sulla pianura setata e sui colli riarsi. Là dove il sole era tramontato, il cielo senza nubi si era fatto di porpora e i raggi del tramonto che inondavano una vetta di una luce fiammante si stemperavano più in là e lungo tutto l'orizzonte in colori più tenui e più sfumati. Anche l'Oriente aveva la sua bellezza, con il suo cielo di un azzurro cupo in cui brillava una gemma modesta, la solitaria stella vespertina. Presto sarebbe sorta la luna, che ora si nascondeva all'orizzonte. Passeggiai un po' sul marciapiede intorno alla casa, ma un sottile e ben noto odor di sigaro mi colpì le nari uscendo da una finestra. Vidi che i vetri della biblioteca erano socchiusi e, sapendo che di là potevo essere osservata, andai nell'orto. In tutta la proprietà non vi era un angolo riparato idilliaco come quello, sembrava un piccolo Eden, così folto di alberi e di fiori. Un muro alto lo separava da un lato del cortile e dall'altro un viale di faggine impediva la vista dal giardino. Sul fondo uno steccato abbattuto lo divideva dalla campagna, dove si arrivava attraverso un viottolo tortuoso fiancheggiato da lauri. Un gigantesco castagno d'India, circondato da un sedile, chiudeva quel sentiero e lì si poteva passeggiare senza essere veduti. In quel silenzio umido di rugiada, mentre si addensavano le ombre della sera, sentii che tutta la vita avrei rimpianto quell'ombroso recesso. Ma mentre camminavo lungo i filari di frutta e le aiole fiorite, dirigendomi verso il fondo dove mi attirava il chiarore che la luna nascente spandeva in quel punto più aperto, ristetti un istante, non perché avessi visto o udito una presenza estranea, ma perché ancora una volta era giunto fino a me un odore ben noto. Il caprifoglio e l'abrotino, il gelsomino, i garofani e le rose esalavano da un pezzo il loro profumo, fragrante offerta alla notte imminente, ma quello che mi aveva colpito non era l'olezzo di un fiore o di un arbusto, era, lo sapevo bene, l'odore del sigaro del signor Rochester. Mi guardai attorno tendendo l'orecchio, vidi gli alberi carichi di frutta, udii l'usignolo gorgheggiare in un folto poco distante, ma non distinsi nessuna forma umana. Non udii il suono di un passo, eppure l'odor di sigaro aumentava. Dovevo fuggire, mi affrettai verso l'usciolo che conduceva all'alberetta e proprio di là vidi entrare il signor Rochester. Con un salto mi nascosi nella grotta tappezzata d'edera, pensando che forse non sarebbe rimasto a lungo e che se non mi muovevo non mi avrebbe veduta. Ma sbagliavo. Evidentemente quell'ora e il vecchio giardino gli piacevano non meno che a me. Venne avanti pian piano, ora rialzando un ramo d'uva spina per vederne i frutti grossi come prugne, ora cogliendo una ciliegia matura, ora chinandosi sopra un cespo di fiori per aspirarne il profumo, o per ammirare le gocce di rugiada sulle loro corolle. Una grossa farfalla notturna mi passò accanto ronzando e andò a posarsi su una pianta ai piedi del signor Rochester, che si chinò a guardarla. Ora mi volta alle spalle, pensai, ed è occupato. Forse se non faccio rumore riuscirò ad uscire senza che se ne accorga. Avanzai, furtiva, sull'erba, per evitare che lo scricchiolio della ghiaia tradisse la mia presenza. Egli era a un paio di metri dal punto dove dovevo passare, ancora occupato, almeno in apparenza, a guardare l'insetto. Forse ci riesco, mi dissi, ma mentre oltrepassavo la sua ombra, che il chiaro di luna allungava sul terreno. Egli, senza voltarsi, disse tranquillamente: Jane, venga a vedere questo insetto. Non avevo fatto alcun rumore e lui non aveva gli occhi sulle spalle. Era stata la sua ombra ad accorgersi di me? Trasalii a tutta prima, poi mi feci avanti. Guardi le ali, mi disse. Mi ricorda un insetto delle Indie. È raro vedere in Inghilterra una farfalla notturna così grossa e variegata. Oh, ecco, è volata via. L'insetto se n'era andato ed anche io stavo timidamente ritirandomi, ma il signor Rochester mi seguì e quando fummo all'usciolo mi disse: Torni indietro, sarebbe una vergogna chiudersi in casa in una serata tanto bella e nessuno può desiderare di coricarsi quando il sole è appena tramontato e sta per sorgere la luna. Sebbene in genere io abbia la risposta pronta, qualche volta non sono capace di trovare una scusa e ciò mi accade sempre nei momenti difficili, quando la parola facile o un pretesto plausibile potrebbero togliermi da un imbarazzo penoso. Non mi piaceva passeggiare a quell'ora sola con il signor Rochester nell'orto buio, ma non seppi trovare una buona scusa per lasciarlo. Lo seguii, riluttante, cercando affannosamente un mezzo per liberarmi, ma egli era così calmo e grave che mi vergognai del mio turbamento. Se ciò che faceva era male, me ne accorgevo io sola, poiché egli appariva troppo tranquillo per esserne consapevole. Jane, riprese, mentre ci inoltravamo nel viottolo dei lauri avanzando lentamente verso il castagno d'India. Non è vero che Thornfield è un soggiorno piacevole d'estate? Sì, signore. A lei deve essersi un po' affezionata a questa casa, lei che ama le bellezze della natura e che ha il gusto della fedeltà. Infatti, ci sono affezionata. E sebbene non riesca a spiegarmene il perché, mi sono accorto che ha un certo affetto anche per quella sciocchina di Adele e forse anche per l'insulsa signora Fairfax. Sì, signore, in modo diverso voglio bene ad entrambe. E le rincrescerebbe separarsi da loro? Sì. È un peccato, disse con un sospiro e tacque. Accade sempre così nella vita, continuò poi. Non appena ci si mette tranquilli in un luogo piacevole, una voce ci chiama e ci ordina di muoverci, perché l'ora del riposo è spirata. Devo andarmene, signore? Devo lasciare Thornfield? Credo di sì, Jane. Me ne dispiace, ma lo credo proprio necessario. Fu un colpo per me, ma non mi lasciai abbattere. Ebbene, signore, sarò pronta quando giungerà l'ordine di mettersi in cammino. È giunto, Jane, è un ordine che devo darle questa sera. Allora lei si sposa, signore? Esattamente, precisamente, con il suo acume consueto lei ha colpito nel segno. Presto, signore? Prestissimo, mia, cioè signorina Eyre. Ricorda Jane il giorno che ha appreso per la prima volta da me o dalle chiacchiere della gente la mia intenzione di accettare i sacri vincoli, di entrare io vecchio scapolo nel santo stato del matrimonio, in una parola di stringere tra le braccia la signorina Ingram? Non so poi se le mie braccia basterebbero a cingerla tutta, ma di una creatura squisita come la mia bella Blanche bisogna accontentarsi di prenderne poca. Dunque, come dicevo, mi ascolta Jane o si volta a guardare altre farfalle? Quella che ha visto, bambina, era soltanto una farfallina che tornava a casa. Dunque, voglio ricordarle che allora fu lei la prima a dirmi, con quella discrezione che rispetto in lei, con quella previdenza, prudenza e umiltà che si convengono alla sua posizione, che se avessi sposato la signorina Ingram, lei avrebbe fatto bene a partire, e così pure Adele. Passo sopra l'offesa alla mia fidanzata implicita in quel suggerimento, e quando lei non sarà più qui, Jane, cercherò di dimenticarla. Ora voglio rilevare soltanto la saggezza di quel consiglio che ho deciso di seguire. Adele andrà in collegio e lei, e signorina Eyre, deve trovarsi un altro posto. Sì, signore, farò subito un'inserzione e intanto suppongo, stavo per dire, suppongo che potrò rimanere qui finché non avrò trovato un nuovo asilo, ma mi interruppi sentendo che non sarei riuscita a pronunciare una frase così lunga perché la voce mi mancava. Tra un mese spero di essere sposato, continuò il signor Rochester, e nel frattempo mi adopererò per trovarle un altro posto. Grazie, signore. Mi duole di darle. Oh, non c'è bisogno di scuse. Sono dell'opinione che quando un dipendente compie il proprio dovere coscienziosamente come lei ha fatto, ha il diritto di aspettarsi dal padrone tutto quell'aiuto che gli può ragionevolmente dare. La mia futura suocera accennava ad un posto che credo le converrebbe. Si tratta di assumersi l'educazione delle 5 figlie della signora Dionysus O'Gall di Bitternut Lodge nella contea di Connaught, in Irlanda. Credo che l'Irlanda le piacerà, si dice che gli irlandesi siano gente simpatica e cordiale. È molto lontano, signore? Che importa? Una ragazza ragionevole come lei non si spaventa né del viaggio né della distanza. Non è il viaggio, ma la distanza. Il mare è una barriera. Tra che cosa, Jane? Tra l'Inghilterra e Thornfield e... Ebbene? Tra lei, signore. Dissi queste parole quasi involontariamente e altrettanto involontariamente mi misi a piangere, ma piangevo in silenzio, reprimendo i singhiozzi per non farmi sentire. Il pensiero della signora O'Gall di Bitternut Lodge mi agghiacciava. Ancora più mi atterriva l'idea della distesa d'onde e di bruma destinata a dividermi da colui a fianco del quale ora passeggiavo, ma soprattutto mi atterriva l'idea che la ricchezza, il rango e il costume, questo mare mi è ancora più vasto, si fossero intromessi tra me e la persona che naturalmente e inevitabilmente amavo. È molto lontano, ripetei. Sì, certo, e quando lei sarà a Bitternut Lodge, nella contea di Connaught in Irlanda, io non la rivedrò mai più. Jane, anche questo è certo, perché non vado mai in Irlanda. È un paese che non mi va, genio. Siamo stati buoni amici, non è vero, Jane? Sì, signore. E quando due amici stanno per separarsi, amano passare insieme il poco tempo che ancora rimane loro. Venga, parleremo tranquillamente per un poco del viaggio e di questa separazione, mentre le stelle cominciano a palpitare in cielo. Ecco il castagno d'India, con il sedile sulle sue vecchie radici. Venga, sediamoci qui in pace questa sera, anche se siamo destinati a non trovarci più insieme in questo luogo. Mi fece sedere, prendendo posto accanto a me. L'Irlanda è molto distante, Jane, e mi addolora di far fare un simile viaggio alla mia piccola amica. Ma che fare se non ho trovato nulla di meglio? Non si è affezionata un poco a me, Jane? Non potei rispondergli perché il mio cuore era troppo angosciato. Perché, riprese egli, qualche volta io provo per lei uno strano sentimento, specie quando mi avvicina, come ora. Mi pare di avere nel cuore una corda invisibile legata strettamente, inestricabilmente ad un'altra simile situata nella parte corrispondente del suo essere. E se un burrascoso braccio di mare e 2.000 miglia di terra ci separeranno, temo che questa corda che ci unisce si strappi e sento che dentro sanguinerei. Quanto a lei mi dimenticherà. Non potrò, no, mai, signore, lei lo sa. Non potrei, non potei proseguire. Jane, sente l'usignolo che canta nel bosco. Ascolti. Ascoltando, singhiozzavo convulsamente. Non potevo più reprimere i miei sentimenti e fui costretta a cedervi, scossa dalla testa ai piedi da uno spasimo acuto. Quando fui di nuovo in grado di parlare, non seppi esprimere altro che il violento desiderio di non essere mai nata o di non essere mai capitata a Thornfield. Le duole tanto di lasciarlo? La veemenza dell'emozione, l'amore, il dolore mi agitavano a tal segno che non riuscivo più a dominarmi. Quei sentimenti esigevano sfogo, volevano espandersi, esprimersi, asserire il loro diritto ad essere e infine a regnare. Così proruppi. Sì, mi addolora di lasciare Thornfield. Amo Thornfield. Lo amo perché vi ho vissuto per qualche tempo una vita piena e deliziosa. Non sono stata calpestata qui, non mi sono isterilita, non sono stata condannata alla compagnia di spiriti inferiori ed esclusa dalla possibilità di comunicare con ciò che è bello, energico ed elevato. Ho parlato faccia a faccia con chi venero, con chi mi delizia, con una mente originale, vigorosa e aperta. Ho conosciuto lei, signor Rochester, e sono colpita di terrore e d'angoscia al pensiero che debbo separarmi da lei per sempre. Vedo la necessità di questa separazione ed è come vedere la necessità della morte. Dove vede questa necessità? Mi chiese all'improvviso. Dove? Lei, signore, me l'ha posta davanti. Ma in quale forma? Nella forma della signorina Ingram, una donna nobile e bella, la sua sposa. La mia sposa? Quale sposa? Io non ho sposa. Ma l'avrà? Sì, certo, l'avrò, disse serrando i denti. E allora io devo andare. Lo ha detto lei stesso. No, lei deve restare, lo giuro, e terrò il giuramento. Le dico che devo andarmene, replicai, cedendo a un impeto di passione. Crede che possa rimanere, non essendo nulla per lei. Crede che io sia un automa, una macchina incapace di sentire, che possa sopportare di vedermi strappato di bocca il mio pezzetto di pane e allontanata dalle labbra la mia goccia d'acqua vitale. Che Crede che perché sono povera, oscura, brutta e piccola io non abbia né anima né cuore? È in errore. Io ho un'anima esattamente come lei e un cuore altrettanto ricco. E se Dio mi avesse elargito la bellezza e la ricchezza, le avrei reso amara e difficile la separazione, non meno di quanto ora lo è per me. Io non le parlo più come vogliono l'uso e le convenzioni, e nemmeno come un essere mortale. È il mio spirito che si rivolge al suo spirito, come se entrambi, dopo essere passati per la tomba, ci trovassimo ai piedi del Signore uguali. Come siamo? Come siamo? Ripeté il signor Rochester. Così, aggiunse chiudendomi tra le braccia, stringendomi al petto, premendo le sue labbra sulle mie. Così, Jane. Sì, così, signore, dissi. Eppure non così, perché lei è un uomo ammogliato, o perlomeno sul punto d'esserlo, ad una donna che le è inferiore, per la quale non prova alcuna simpatia e che non credo ami veramente, perché l'ho visto e sentito ridere di lei. Io sdegnerei una simile unione. Dunque. Sono migliore di lei, signor Rochester, mi lasci andare. Dove, Jane? In Irlanda? Sì, in Irlanda, ho detto quel che pensavo ed ora posso andare in qualunque luogo. Jane, si metta tranquilla, non si dibatta come un uccello selvatico che si strappa le penne per la disperazione. Io non sono un uccello e non sono caduta in una rete. Sono un essere libero, con una volontà indipendente che ora esercito lasciandola. Un nuovo sforzo mi liberò dalla sua stretta. Ora stavo ritta davanti a lui. La sua volontà deciderà della sua sorte, disse egli. Io le offro la mia mano, il mio cuore ed i miei beni. Lei recita una farsa che mi fa soltanto ridere. Le domando di trascorrere la vita al mio fianco, di essere il mio secondo io e la mia migliore compagna sulla terra. Riguardo a ciò, lei ha già fatto la sua scelta e a quella deve attenersi. Jane, non parli per un momento, è troppo eccitata, tacerò anch'io. Un soffio di vento alitò tra i lauri del vialetto, agitando le fronde del castagno, e passò oltre, perdendosi in distanza. Il canto dell'usignolo era il solo suono che si udisse in quell'ora, ed ascoltandolo di nuovo gli occhi mi si riempirono di lacrime. Il signor Rochester sedeva tranquillo e mi fissava con uno sguardo dolce e serio. Passò qualche tempo prima che parlasse, poi disse: «Venga vicino a me, Jane, e cerchiamo di spiegarci e di capirci. Non tornerò più vicino a lei, mi sono allontanata e non posso tornare». Ma Jane, io mi rivolgo a lei come a mia moglie. Non intendo sposare altri che lei. Tacevo, credendo che si burlasse di me. Venga, Jane, si avvicini. La sua fidanzata è in mezzo a noi. Si alzò e con un passo mi raggiunse. La mia fidanzata è qui, disse attirandomi a sé, perché è lei la mia uguale, la mia simile. Jane vuole sposarmi. Ancora non risposi e cercai di svincolarmi perché ancora non credevo. Dubita di me, Jane? Sì. Non ha fede in me, nemmeno l'ombra. Sono un bugiardo ai suoi occhi, mi chiese con passione. Piccola scettica deve convincersi. Forse che io amo la signorina Ingram? No, e lei lo sa. Forse che Blanche mi ama? No, come ho potuto assicurarmi. Ho fatto correre la voce che il mio patrimonio non ammonta a un terzo di quello che si suppone. E quando fui certo che la voce fosse giunta a lei, mi presentai per vederne il risultato. Ebbi un'accoglienza gelida da parte sua, come da parte di sua madre. Non volevo, non potevo sposare la signorina Ingram, ma lei, Jane. Lei, strana creatura, quasi immateriale, l'amo come la mia stessa carne, è povera, oscura, brutta e piccina com'è, la supplico di accettarmi per marito. Come? Io? Esclamai, cominciando a credere di fronte a tanta serietà e specialmente di fronte a tanta impertinenza che parlasse sul serio. Io che non ho amici al mondo altri che lei, ammesso che lo sia, che non ho uno scellino se non quelli che lei mi ha dato. Lei, Jane, bisogna che sia mia, interamente mia. Vuole essere mia moglie. Dica presto di sì. Signor Rochester, si volti verso la luna. Perché? Perché voglio leggerle il viso. Si volti. Ecco, ma non lo troverà più leggibile di una pagina sgualcita e sbiadita. Legga su, ma faccia presto, perché soffro. Il suo volto era acceso e agitato, i lineamenti contratti. E negli occhi gli ardeva una strana luce. Oh, Jane, lei mi tortura, esclamò con quello sguardo scrutatore, anche se sincero e generoso, mi tortura. Com'è possibile? Se è sincero, se la sua offerta è vera, i miei sentimenti per lei devono essere di gratitudine e di devozione, non possono farle male. Gratitudine, esclamò egli e aggiunse violentemente. Jane, mi accetti subito, mi chiami per nome, mi dica Edward, Edward, voglio sposarti. Dice sul serio? Mi ama veramente, desidera proprio che diventi sua moglie. Sì, e se è necessario un giuramento glielo giuro. Allora, signore, io la sposerò. Dica, Edward, mia piccola moglie. Caro Edward, venga, venga vicino a me. E poi aggiunse con voce profonda, parlandomi all'orecchio e con la guancia appoggiata alla mia, faccia la mia felicità e Dio farò la sua. Iddio mi perdoni, aggiunse dopo un poco, e gli uomini non si intromettano. Ora l'ho ottenuta e la voglio conservare. Nessuno si intrometterà, signore, io non ho parenti che si curino di me. No, ed è una fortuna, disse. Se io lo avessi amato meno, avrei letto nel suo aspetto e nel suo accento una selvaggia esaltazione, ma seduta al suo fianco, appena liberata dall'incubo della separazione, chiamata un'unione di paradiso, pensavo soltanto alla felicità piovuta sì generosamente su di me. Ogni tanto egli mi domandava: Sei felice, Jane? E ogni volta io rispondevo: Sì. Poi mormorava: sarò giustificato, non l'ho forse trovata senza amici, sola e sconsolata, non ho forse deciso di custodirla, di volerle bene, di renderla felice, non vi è forse amore nel mio cuore, fermezza nella mia risoluzione, sarà un'espiazione. Davanti al tribunale di Dio so che il mio fattore sanziona ciò che faccio, del giudizio del mondo non mi curo e l'opinione degli uomini la sfido. Ma che cos'era accaduto nel cielo? La luna non era ancora tramontata eppure eravamo al buio. Non vedevo quasi più il viso del mio padrone, sebbene gli fossi vicinissima. E che aveva l'ippocastano da gemere ed agitarsi, era il vento che, sibilando attraverso il viottolo dei lauri, ci investiva con le prime folate? Dobbiamo rientrare, disse il signor Rochester. Il tempo cambia. Sarei rimasto qui con lei fino a domattina, Jane. Ed io pure, pensai tra me, sarei rimasta qui con te e forse l'avrei detto se un livido chiarore, sprigionatosi dalla nuvola che stavo guardando, non avesse squarciato l'aria. Il lampo fu seguito dal fragore di un tuono e da un fitto scroscio di pioggia che mi fece nascondere gli occhi abbacinati sulla spalla del signor Rochester. L'acqua veniva giù a rovesci. Ci mettemmo a correre lungo il viottolo e attraverso il giardino, ma arrivammo inzuppati sulla soglia di casa. Nel vestibolo egli mi tolse lo scialle e stava scuotendo l'acqua dei miei capelli sciolti quando dalla sua stanza uscì la signora Fairfax. Né io né il signor Rochester ci accorgemmo subito di lei. Il lume era acceso e l'orologio segnava mezzanotte. Vada subito a togliersi codesti abiti bagnati, mi disse. Ma prima, buonanotte, mia cara. E mi baciò più volte. Quando alzai gli occhi, staccandomi da lui, scorsi a pochi passi la vedova, pallida, grave e meravigliata. Le sorrisi soltanto ai corsi di sopra. Le spiegherò tutto in un altro momento, pensai, ma quando fui in camera mia provai una fitta al cuore all'idea che la potesse anche solo temporaneamente interpretare male ciò che aveva visto. La gioia, tuttavia, cancellò presto ogni altro sentimento. Per quanto il vento soffiasse con violenza, i tuoni si susseguissero assordanti e frequenti come il bagliore dei lampi e la pioggia scrosciante a torrenti per 2 ore, io non provai paura né sgomento. Il signor Rochester venne 3 volte alla mia porta per domandarmi se ero tranquilla, e questo bastava a rendermi forte e calma. Il mattino dopo, mentre ero ancora a letto, la piccola Adele entrò correndo in camera mia per dirmi che il grande ippocastano in fondo all'orto era stato colpito e squarciato dal fulmine.